L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata che registriamo ad Ecomondo. Siamo molto lieti di poterlo fare compagnia di Conai, che quest'anno compie 20 anni, non sono pochi, sono 20 anni nei quali il CONAI ha aiutato gli italiani, i comuni a differenziare bene i propri rifiuti, raccoglierli e poi avviarli al riciclo. Di questo parliamo con il presidente di CONAI, Giorgio Quagliuolo, che è qui con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. E poi abbiamo in nostra compagnia anche il presidente di CoReplan, Antonello Ciotti, e il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti. Benvenuti anche a voi. Buon pomeriggio. Cercheremo di fare un po' uno spaccato con voi di questi 20 anni, 20 anni appunto di CONAI, 20 anni di decreto Ronchi, che con lungimiranza decise di privilegiare il riciclo rispetto ad altre scelte che furono fatte in quegli anni della termovalorizzazione, per esempio. Quindi ci fu questa indicazione di andare verso il riciclo. L'Italia a quell'epoca riciclava assai poco, circa un 9%, mi può confermare, presidente Quagliuolo, che l'epoca era più o meno quella? Sì, forse anche meno. Forse anche meno, si raccoglievano poche cose, si riciclava pochissimo. Adesso invece siamo a dei livelli molto più alti per quel che riguarda gli imballaggi, che sono quelli di cui vi occupate voi, che siete un po' il deus ex machina di tutti i 6 consorzi che poi nelle prossime puntate incontreremo. Oggi abbiamo appunto Corepla e Comieco, nelle prossime puntate avremo anche tutti gli altri vostri consorzi. Allora, dicevamo, a che punto siamo arrivati dopo 20 anni? Diamo qualche linea generale. Beh, dopo 20 anni siamo arrivati, diciamo, molto lontano rispetto a dove siamo partiti. Mi piace però fare una piccola precisazione. Sì. Quello che lei ha detto è vero, ma con qualche piccola... Di cosa? No, puntualizzazione che merita di essere fatta. Cioè, quando noi siamo partiti, diciamo che il problema grosso era quello dei rifiuti urbani. Cioè, nei rifiuti urbani si faceva poco o niente. Per quello che riguarda invece quello che oggi noi definiamo riciclo indipendente, che sostanzialmente si rivolge a quelli che sono i rifiuti industriali e commerciali, c'era già viva una filiera di riciclatori indipendenti, soprattutto nella carta e nel vetro, che facevano già un'operazione di recupero degli imballaggi o comunque dei materiali che potevano essere avviati al riciclo. Anche perché non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia è un paese molto povero di materia prima, per cui questo ha sempre contribuito ad accendere la tradizionale fantasia italiana, per cui questo sicuramente... Una cosa, esattamente. Da cosa nasce cosa. Anche perché il rifiuto industriale, non dimentichiamolo mai, ha una prerogativa rispetto a quello urbano, che è pulito. Per cui ha sicuramente... È netto, certo. È netto, per cui ha delle caratteristiche che lo rendono molto più facilmente riciclabile e sicuramente di una qualità maggiore. Però per tornare al nostro tema... Quindi il problema era il rifiuto urbano. Il problema era il rifiuto urbano. E infatti le crisi c'erano, esattamente, state e sarebbero venute anche dopo. Ma la stessa Milano, che oggi è additata come la città da prendere ad esempio in Italia, come grande metropoli, non dimentichiamoci che nel 94 ebbe una grossa crisi di rifiuti, ci fu un'emergenza di rifiuti importantissima a Milano. E da lì, tra l'altro, Milano, appunto, rimboccandosi le maniche, poi dopo è diventata la Milano di oggi, cioè dove, diciamo che a livello di metropoli di quelle dimensioni è sicuramente un esempio, un fulgido esempio di eccellenza. Allora, 20 anni, sono passati 20 anni, noi oggi possiamo dire che in 20 anni abbiamo mandato a riciclo 50 milioni di tonnellate. Questo è il dato, secondo me, importante da sottolineare. Questi 50 milioni di tonnellate, tradotto così, giusto per dare un'idea di che cosa significano 40 milioni di tonnellate di CO2 evitate come emissioni nell'ambiente, significano 130 discariche evitate, e solo per quello che riguarda, diciamo, l'impatto ambientale. Se poi dopo vogliamo andare ad analizzare l'impatto economico, dobbiamo parlare di 6.000 aziende, più di 150.000 posti di lavoro, e per cui, diciamo, è tutto oltre, se vogliamo vedere anche l'indotto, sono altre 6.000 aziende e altri 180.000 posti di lavoro. Poi sono tecnologie da internazionalizzare. Esattamente, al di là dell'aspetto ambientale, a me piace sempre molto sottolineare l'aspetto economico, perché non dimentichiamoci mai che viviamo un momento di crisi di congiuntura economica, e queste attività hanno sicuramente portato a uno sviluppo, alla creazione di posti di lavoro, di ricchezza, per cui il famoso PIL di cui oggi tanto si parla, sicuramente un piccolo contributo l'abbiamo dato anche noi. Tra l'altro voi vedete spesso, ci è capitato tante volte con il direttore Montalbetti di parlarne, vedete proprio attraverso la quantità di imballaggi come vanno le cose nella nostra economia. A volte riuscite anche a prevedere, l'anno prossimo avremo dati migliori perché abbiamo raccolto più imballaggi rispetto all'anno precedente. È un dato curioso che però è così, no? Sì, sì, certo, gli imballaggi sono dal punto di vista, diciamo, statistico un rozzo ma importante indicatore di come va l'economia. Evidentemente, e quindi ci sono elementi molto interessanti che emergono. Per esempio, se guardiamo il cambiamento delle abitudini dei consumatori, registriamo soprattutto nelle aree metropolitane e per ora particolarmente al nord una fortissima crescita del commercio elettronico. E questo cosa comporta? Comporta che per esempio un'area metropolitana come quella di Milano mensilmente sono consegnati 650.000 pacchi. Che evidentemente che vuol dire imballaggi. Ed è quindi questa un'area che deve essere seguita e gestita, perché porta con sé, prendiamo la casa del cartone, dei problemi dal punto di vista organizzativo per quanto riguarda le società che fanno la raccolta. Il cartone, evidentemente, la scatola porta via del volume maggiore rispetto alla raccolta tradizionale delle carte grafiche. E a Milano, non casualmente, è partito questo servizio sperimentale dell'AMSA, che è dedicato specificatamente alla raccolta delle confezioni in cartone che seguono il commercio elettronico, e quindi tutto questo contribuisce ad avere un'immagine certamente più nitida di come si sta evolvendo la società italiana. C'è un altro dato molto interessante a proposito della raccolta. Vedevo ieri sera proprio i dati del rapporto ISMEZ sul Sud. Il Sud ha una crescita importante dal punto di vista del PIL, molto indietro rispetto comunque alle regioni del Nord, però è stato registrato un balzo. Ecco, per esempio nel Meridione si assiste anche nel settore, per esempio, della raccolta differenziata e la presenza degli imballaggi, parlo sempre di carta e cartone in particolare, un balzo importante, significativo, cioè stiamo seguendo quello che nel paese sta avvenendo, e quindi da questo punto di vista credo che sia importante sotto il profilo statistico, ma molto più importante, come accennava prima il presidente del CONAI, per gli effetti che ha sul sistema industriale. Qui stiamo parlando di un'industria del riciclo che è una, diciamo, delle leve più significative dell'economia nazionale, quindi non solo carta, cartone, vetro, plastica, l'insieme è una vera e propria risorsa nazionale. Essendo un'industria, ha anche bisogno di ricerca e sviluppo. Cioè, una cosa su cui voi al Corepla, quindi recupero plastiche, Antonello Ciotti, state insistendo molto. Certo, la nostra storia inizia con il 97 con un recupero, un riciclo per abitante di circa 1,5 kg. Siamo arrivati, media nazionale quest'anno, abbiamo superato i 16 kg, per cui è aumentato di 10 volte. Con delle eccellenze molto elevate in Veneto, siamo oltre i 25 kg, e alcune regioni che faticano un po', come la Sicilia, che è intorno ai 4 kg. Però mi volevo ricollegare a quello che diceva il collega Montalbetti, perché abbiamo visto la Campania in tutto ciò posizionarsi ai livelli della Lombardia, per cui veramente c'è una risposta molto forte molto da parte veloce. Del Sud. Ma che significa questo? Significa che noi raccogliamo molto di più. Raccogliendo molto di più dobbiamo generare, trovare, come abbiamo fatto 20 anni fa, dobbiamo generare un nuovo mercato a valle che sia in grado di recepire queste materie prime e seconde che noi generiamo dalla raccolta differenziata. E per questo, dopo i primi 20 anni, dobbiamo guardare al futuro e dirci cosa dobbiamo fare. L'economia circolare avviene non per decreto, ma perché tutti noi, incluse le aziende, facciamo qualche cosa di differente. Noi come Corepla vogliamo essere il catalizzatore di studi, di piani di ricerca che colleghino tutti gli attori della filiera dell'imballaggio, partendo dai produttori di materie plastiche, che hanno il know-how sulla materia, ai brand owners, che vendono il prodotto imballato, sì, ai cittadini, che in qualche modo devono in qualche modo operare la raccolta differenziata in modo più corretto per far sì che il prodotto poi sia più facilmente riciclabile. Benissimo. Allora, su questo passaggio ci fermiamo un attimo per una pausa pubblicitaria e poi dopo ritorniamo. dai Deborah, racconti la borsa tutto il giorno, dammi un titolo. È meglio il petrolio che sale o il dollaro che scende? È arrivato, se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure. La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori. Sì, perché non sono temi difficili, noi dobbiamo essere autorevoli. E leggeri, sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza. Bravo! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Tutti i giorni alle 11 su Radio 24. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Ecomondo, ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Proseguiamo il nostro colloquio con vari consorzi che si occupano del recupero degli imballaggi che utilizziamo quotidianamente nelle nostre case e per, che vengono utilizzati per movimentare i prodotti in giro per il paese. Il presidente del CONAI, vorrei richiamare in causa Giorgio Quagliuolo. Vorrei sapere, abbiamo accennato già più volte, di queste grandi differenze che ci sono nel nostro paese, regioni che corrono, regioni che restano indietro, città all'interno di regioni che vanno benissimo e città nella stessa regione che non va benissimo. Lì, quanto vi preoccupa questa cosa? Come pensate che si riesca prima o poi a parificare tutti? Beh, preoccuparci ci preoccupa per un insieme di motivi, perché ovviamente al di là del fatto che per un motivo ambientale bisogna cercare di fare la raccolta differenziata e farla bene in maniera sia qualitativa che quantitativa in tutto il paese, per questo come visione, come missione diciamo, ci preoccupa anche perché l'Unione Europea sta discutendo in questo periodo i nuovi obiettivi. Adesso grazie a Dio hanno spostato il termine ultimo della discussione a primavera, perché è un percorso molto faticoso, non dobbiamo nascondercelo, e questi nuovi obiettivi, almeno nella formulazione che noi stiamo vedendo in questi giorni, sono davvero molto sfidanti, perché benché al 2025 più o meno ci siamo, perché abbiamo un obiettivo di recupero complessivo del 65% e noi siamo già al 67%, per cui è un obiettivo già raggiunto, con qualche difficoltà per la plastica, ma la plastica purtroppo natura particolare rispetto alle altre materie. Poi dire plastica non è neanche bisogna dire le plastiche, tanto per cominciare. E, però diciamo gli obiettivi che si stanno delineando al 2030 si parla del 75% di recupero complessivo. Per cui questo è un dato che prima di tutto molto sfidante. In secondo luogo, che non è raggiungibile se non si fa una raccolta differenziata a livello più esteso, per cui quantitativamente deve essere incrementata e deve essere portata laddove oggi non si fa. Prima è stata citata la Sicilia. La Sicilia è in una situazione drammatica, perché la Sicilia praticamente non fa raccolta differenziata, va quasi tutto in discarica. E questa è una situazione che assolutamente non si può più tollerare che continui. Anche perché la Sicilia, parliamo di una regione di più di 5 milioni di abitanti, per cui però è chiaro che dobbiamo trovare delle amministrazioni locali che abbiano la volontà di fare quello che si deve fare. Un esempio su tutti, Bari. Noi Bari quest'anno abbiamo messo in campo la nostra struttura, la nostra organizzazione, abbiamo fatto il piano operativo, abbiamo assistito il comune nella start-up, abbiamo fatto il piano di comunicazione, siamo partiti in due quartieri molto popolosi, perché totalizzano 18.000 abitanti, per cui l'equivalente di un piccolo medio paese italiano, e siamo arrivati a un tasso di raccolta differenziata dell'80%. Ma che cosa è successo a Bari? A Bari è successo che abbiamo trovato un sindaco che oltre ad essere presidente dell'ANCI è anche un sindaco che ci ha messo un fortissimo impegno politico, una fortissima volontà politica. E abbiamo trovato un assessore all'ambiente che ci ha messo un entusiasmo straordinario, un signore che girava con le pattumelle in macchina per andare in giro dai cittadini a far vedere come fare. E tutto questo ha contagiato la popolazione, perché non dimentichiamoci mai che... Lei ha detto che sono due gli attori, in realtà sono tre, cioè qui non si può dire facciamo l'amore in tre, però si può dire, però ci vogliono i cittadini. Lì stavo arrivando, il cittadino, questa è una cosa che non si dice spesso, ma che non dobbiamo nascondercelo. Cittadino, per il cittadino è molto più comodo buttare tutto in un cassonetto e ciao, arrivederci, certo. Anche perché la raccolta differenziata ha dei tempi. Bello sarebbe se voi poteste poi scorporare tutto. Poi dopo se ne va a carta 48 la qualità. Per il cittadino è molto più comodo buttare tutto in un... Cioè, è un'operazione che, diciamo, deve scardinare della pigrizia, delle comodità, insomma, ben radicate. Per cui ci vuole chiaro la partecipazione, però al cittadino è vero che il cittadino è poi sostanzialmente l'attore della raccolta differenziata, perché è colui che inizia tutto. Beh, col gesto del conferimento. Però è anche vero che il cittadino, diciamo, la fa perché quando il comune è praticamente lo invoglia, lo obbliga, dai, sostanzialmente, perché sì. È chiaro che se io ti metto i contenitori della raccolta differenziata e faccio sparire i cassonetti dell'indifferenziato, cioè, tu la roba solo lì la puoi andare a mettere, ecco. È così. A proposito di plastiche, e sì. Quelle, c'è anche la questione della riduzione, no, del contributo ambientale per chi fa degli imballaggi più riciclabili. Sì, esatto. Quindi voi le state provando un po' tutte, diciamo. Sì, cioè, il punto, c'è la ricerca e sviluppo, c'è, certo, anche il contentino, insomma, c'è tutto. Sì. Quello che perché è complesso, effettivamente, è le plastiche complesso. Non è chiaro come il vetro, dove va e cosa fa. Come diceva il presidente Guagliuolo, non si parla di plastica, ma di plastiche. Che significa? Significa che le plastiche sono come, mi piace questa immagine, i condomini di un palazzo molto riottoso. Non possono stare insieme una volta differenziati, perché altrimenti la materia nuova, la materia prima seconda che si crea, non ha nessun valore, non può essere impiegata. Per cui noi cosa dobbiamo fare? Abbiamo impianti di selezione estremamente performanti che separano le varie plastiche ove sia possibile. Ma avete anche tanto scarto. Abbiamo tanto scarto, abbiamo bisogno del cittadino che collabori a fare questa selezione. Abbiamo bisogno del brand owner che, quando disegna un imballo, lo disegni già in un certo modo che sia pronto per il riciclo. Infatti si parla di design for recycling, perché l'imballo iniziale deve essere in qualche modo preparato per... E qui si potrebbe aprire però un bel dibattito, perché da una parte, col fatto che saremo 9 miliardi tra 30 anni, abbiamo un'estrema attenzione al food waste, che non, il cibo non vada sprecato. Per cui abbiamo bisogno di imballi che proteggano sempre di più il contenuto. Dall'altra parte abbiamo bisogno di un imballaggio che sia sempre più possibile semplice, in modo da essere riciclato. Per cui il nostro investimento in ricerca e sviluppo chiama anche le industrie con questa sfida. Un imballaggio che preservi e allunghi la vita media del prodotto, del contenuto, ma allo stesso tempo che sia facilmente riciclabile. E scomponibile, perché voi due poi dopo, penso a Comiec e Corepla, con i doggy bag, queste cose qui, sì, sono fatti sia di una parte di cartone e sia di una parte di plastiche, certo. Quindi deve essere anche ben chiaro come si scompone, dove si divide l'uno e si divide l'altro. Pensavo a un dato molto preciso, cioè tutta, diciamo, questa grande avventura del sistema CONAI, dei consorzi, è una grande avventura che ha a che vedere con, come è stato detto prima, dei cambiamenti significativi delle abitudini degli italiani. Noi abbiamo attivato un osservatorio nazionale da diversi anni con Ipsos per verificare lo stato del senso civico degli italiani, e vediamo che laddove la raccolta differenziata è fatta bene, evidentemente ha introdotto un criterio diverso nei comportamenti, che non sono solo individuali, ma diventano anche di comunità. Pensate soltanto a Milano e alle 60.000 circa sanzioni che vengono elevate ai condomini perché fanno male alla raccolta differenziata. All'interno dei condomini, assemblee condominiali, questo è un problema, e questo, certo, condiziona poi il comportamento personale. Ecco perché questa esperienza non può essere solo letta dal punto di vista ambientale, ma abbiamo anche un'importantissima azione di educazione civica. E con l'educazione civica anche un rapporto diverso delle aziende. Però poi ci deve essere qualcuno che si prende la responsabilità, qui sono i consorzi, quindi il ruolo strategico di CONAI, che garantisce che vado a ritirare da Pantelleria al piccolo comune che sta sulle Alpi. Non c'è nessuno che fa questa attività se non un sistema consortile, quindi un valore per il paese, credo, molto importante. È un sistema che... Prego. Se posso, mi piace riassumere questo con semplici tre avverbi, sono tutti, subito, ovunque, nel senso che noi raccogliamo tutto, sempre, indipendentemente da quale sia la valenza economica, e ovunque su tutto il territorio nazionale. Questo è un punto fondamentale dell'esperienza CONAI e dei consorzi. Che dice Presidente? Poi il sistema ci serve appunto perché per arrivare tutti, sai com'è, ovunque, sempre ovunque, tutti sempre ovunque, perché poi uno può mettersi sul mercato da solo, ma non è facile essere sempre ovunque di tutte le materie. Cioè, riguardo al sistema, non dimentichiamo mai che noi siamo un sistema senza scopo di lucro, perché questa è una cosa fondamentale ed è proprio questo che ci consente appunto di garantire il ritiro universale, per cui tutto e ovunque. Per cui, ma le vostre strutture? Come vivono? Di che denaro vivono? Adesso ci arriviamo. Che è chiaro che abbiamo davanti un futuro nel quale dobbiamo intervenire, ma non solo diciamo, in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi, perché quello che a me piace ripetere è che la raccolta differenziata non è il fine, la raccolta differenziata è un mezzo che deve portare al riciclo. Abbiamo di fronte anche dei problemi in questa ottica, perché già oggi vediamo che ci sono delle difficoltà a trovare sbocchi di mercato per le materie prime e seconde. Per cui è chiaro che se noi dovessimo un domani arrivare, come dovremo arrivare, a una raccolta differenziata onnicomprensiva del paese, avremo un 50% o 60% di materiale in più da piazzare sul mercato. E questo è un qualcosa di cui dobbiamo cominciare a preoccuparci, perché già oggi questo, abbiamo delle difficoltà a piazzare certe frazioni. Uno degli strumenti che esistono e che però dovrebbero trovare applicazione è il Green Public Procurement, però come qualcuno diceva prima di me, purtroppo il mercato non lo crei per decreto. Abbiamo un tema importantissimo che è quello della prevenzione, sul quale noi ci stiamo impegnando in maniera fattiva. Le differenziazioni contributive noi riteniamo che vadano in questa direzione, perché appunto premiano gli imballaggi più riciclabili e penalizzano gli imballaggi meno riciclabili. Questo chiaramente nell'ottica di spingere le aziende utilizzatrici, i brand owner, come diceva l'ingegner Ciotti, ad andare sulla strada dell'utilizzo di imballaggi più ecosostenibili. Noi abbiamo istituito un bando prevenzione nel quale premiamo le società che immettono sul mercato imballaggi più ecosostenibili, un bando che è praticamente sostenuto da 400.000 euro che abbiamo messo come premio quest'anno e che si avvale di uno strumento che si chiama EcoTool. Questo strumento è utilizzato online per valutare l'impatto ambientale di un imballaggio. Adesso stiamo anche valutando se estendere questo strumento al di là del bando di prevenzione, proprio come strumento a disposizione delle aziende, perché siamo sempre dell'idea che prevenire, ma questo lo dice anche la gerarchia europea, è meglio che curare, per cui se mettiamo in atto lo dice anche il tuo dentista. Poi, per quello che riguarda la sua domanda su come si finanzia il sistema, si finanzia sostanzialmente su due voci di entrata. La prima è il contributo ambientale. Che sono le imprese che... E poi? E poi abbiamo la vendita delle materie prime e seconde, per cui contributo ambientale e vendita delle materie prime e seconde. Benissimo, noi ci fermiamo qui, grazie ai nostri ospiti, ricordo che sono stati Giorgio Quagliuolo, Antonello Ciotti, Carlo Montalbetti, e a risentirci alla prossima occasione.